quando si respira inverno e il freddo alle porte, non si parla di sete, non ci ispira la sorte. La bottiglia e quel vino tanto limpido sta finendo e tu lo sai già che non ne puoi più versare. E qualcuno sta cercando ancora di convincerti che i giorni passano e tu sei lì che vuoi lottare. La speranza è la musica dei poveri, ma i giorni passano e tu sei lì. La tristezza è una sinfonia di note sonate, l'avventura per te è un treno senza fermate. La durata di una sigaretta, salita in corsa, il vuoto sotto i tuoi piedi e pendi sulla testa. Ma i ritocchi della vita ancora ti rimogliano e tu sei un albatro che voli giù, radendo il mare, nel tuo sogno che quella realtà dei semplici, ma i sogni calano e tu sei lì. La vita è un temporale, tu non hai niente addosso e devi rientrare. Come tutti quelli che hanno un'ombra, respiri fuori un mondo fatto di vetri e la tua stanza colori. E qualcuno sta cercando in vano di convincerti che i soldi contano e tu sei lì e lo vuoi fermare. Compassione che poi l'anima dei poveri, ma i soldi contano e tu sei lì. Resta un mistero del vuoto che ho detto, ma ho già deciso che voglio fare, che voglio. Si respira inverno e il freddo alle porte, non si parla di sé che non ci ispira la sorte. La bottiglia e quel vino tanto limpido sta finendo e tu lo sai già che non ne puoi più versare. E una voce dentro sta cercando di raggiungerti come un megafono e non vuoi più restare solo nel silenzio alla luce dei fiammiferi.